fossi yo, y en el lento divagar una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Oggi chi ascolta e vuol farmi cosa gradita dovrebbe prendere istantaneamente una penna, una matita, un lapis e un pezzo di carta. Quello che chiedo questa mattina è di cominciare a scrivere l'elenco dei propri amici. Fate la conta dei vostri amici. Cominciamo a definire il termine amico per avere un punto comune, perlomeno per discutere, per incontrarsi. Cosa significa amico? Non intendo gli amici, solamente quelli per cui dareste la vita, che siete convinti che darebbero la vita per voi. Quelli non esistono. Dio mai volesse che qualcuno dovesse vederli alla prova in un momento fatidico. Gli amici, quelli che vi viene in mente di pensare, amici e amiche, non faccio distinzione di sesso. Io ho molto più amiche che amici, ho molta più stima delle donne, mi trovo molto meglio con le donne, trovo più piacevole stare accanto a delle donne perché puzzano meno degli uomini. Quindi ho innanzitutto un'epidermica piacevolezza nel loro contatto. Poi trovo che questa sottile tensione c'è sempre comunque con qualsiasi donna, con uno con cui ognuno si relazioni, ti tiene sveglio, non ti fa mai addormentare. Le innumerevoli bruciature che ha avuto un essere umano di sesso maschile con il sesso femminile fa sì che anche l'amicizia con una donna sia corroborata comunque da quel minimo di circospezione e di diffidenza che fa sì che l'amicizia sia cementata, sia sempre una scoperta, sia sempre qualcosa di nuovo. Nei confronti degli uomini, almeno me personalmente, faccio quello che dovreste comunque a prestarvi a fare voi, ho una serie di persone che posso considerare amiche, sinceramente amiche, so che ci sono, so che quando li chiamo comunque ci sono. Non vorrei mai affondare lo spessore di questa amicizia oltre l'esserci, oltre l'essere solidale, oltre fare due chiacchiere assieme, oltre dare un consiglio, non vorrei mai vederli alla prova, perché mi è capitato non molti anni fa di vedere alla prova quelli che consideravo i miei migliori amici, quelli che consideravo anche in certa maniera qualcosa di più di amici, perché avevamo passato momenti importanti nella vita assieme, avevamo costruito assieme, io stesso mi sentivo di aver fatto molto per loro. Beh, esistono delle fasi della vita in cui si accorge che gli amici in realtà sono legati da noi a una sorta di rapporto di conti non chiusi. L'amico ti è amico, o almeno finge di esserti amico, perché in realtà vorrebbe avere una rivalsa sul fatto che nel rapporto di amicizia tu hai una qualche chance in più rispetto a lui, e quindi devi ripareggiare la sorte, devi dimostrare comunque lui ce la può fare nella vita anche senza bisogno di te come amico fedele, quindi l'amico ti tradisce. Poi esiste un altro livello di amici molto più legato alla contemporaneità, agli usi contemporanei. Sono gli amici per convenzione che noi otteniamo tramite un social network. Beh, io su Facebook, è risaputo perché è uno degli strumenti fondamentali con cui costruisco questo programma, ho 5.000 amici nel profilo personale, altrettanti in un profilo pubblico, o vari gruppi. Diciamo che metterò insieme una decina di migliaia di amici. Quanti di questi amici sono veramente amici? Non me ne importa nulla, sono tutti amici e nessuno di loro è amico. Questa è la magica e meravigliosa occasione in cui uno può sovrascrivere le proprie relazioni, perché sono relazioni impalpabili o palpabilissime o molto palpate o per nulla palpate o vezzeggiate o adorate o sognato, immaginato, vituperate. Sono comunque altre maniere in cui uno può provare se stesso. Esiste una teoria che è stata perfezionata proprio alcuni giorni fa, che in realtà il numero ideale di amici è 150. Lo dice un antropologo dell'Università di Oxford, Robin Dunbar, di cui poi vi approfondiremo meglio il pensiero, che più di 150 amici non si possono avere. La nuvola relazionale di un essere umano, secondo le sue possibilità fisiologiche, secondo i limiti fisici della sua neocorteccia cerebrale, 150. Quindi probabilmente mi cullo nell'illusione di decine di migliaia di amici, ma sono 150 lo zoccolo duro che mi sta accanto. Allora Vivi, che facciamo? Niente da fare. Ok. L'appuntamento era per le 21:30 alla cabina telefonica di Viale Garibaldi. Qui Calboni fece 126 telefonate ad altrettanti sconosciuti concittadini, gabellandoli per attricette e indossatrici. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuta? Sì, sì. Ho due amici. Beh, diciamo di mezza età. Uno piccolotto, grasso. L'altro magro, ma miope. Occhiali doppi. Tipo civetta, sai. Come? Ah, ho capito. Poi mandiamo Verdone. Vabbè. Così. Ciao Zizi. Occupate anche questa. Ma che? Sarebbero venute tutte, ma non appena vi descrivo inventano una scusa. Ma scusi, lei ci descrive così, Dice civetta, dice. Ma io non posso rovinarmi la piazza, non posso tirar bidoni, ecco. Ma scusa, Calboni, non potresti magari calcare un po' meno le tinte con le prossime? Ma quali prossime? Sono arrivata alla Zeta, quella era Zizi. Come Zizi? Scusi, a te ti può succedere una disgrazia. Calboni, la... Naturalmente gli amici attenti in ascolto avranno sentito il messaggio che passavo tramite interfonico alla persona che sta in regia, perché l'inversione dei tasti del nuovo studio di via Monterosa mi coglie molte volte impreparato. Quindi reifichiamo immediatamente quello che avevo soltanto annunciato. Esistono, come in questo caso, nel tragico Fantozzi, l'amico, il collega d'ufficio più scafato, millante ad avere un'agenda piena di meravigliose donne pronte all'incontro galante con il terribile Fantozzi, Filini, sfigatissimi. In realtà poi li porterà in una tragica avventura di amori prezzolati di cui soltanto lui usufruirà naturalmente. Ma in periodo totalmente analogico la conta degli amici o la cerca degli amici o la necessaria chiamata a raccolta delle persone con cui passare attimi di non solitudine non avviene attraverso un profilo di Facebook in cui è molto facile vedere le persone che si hanno online in quel momento. In questo momento io ho 290 persone online, sono 290 persone con cui posso chattare, di cui vedo il profilo, vedo la foto, vedo la linea di status, quindi la sintesi grafica del loro stato d'animo. Potrei chiamarne qualcuno, potrei conversare con loro. No, invece ai tempi di Filini, Carboni e Fantozzi bisognava andare in una cabina del telefono, bisognava scorrere un'agendina cartacea e millantare che in realtà l'elenco degli amici siano meravigliose donne con cui passare la serata. Pronto? Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello. Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Ma è reperibile da qualche parte? È rintracciabile? No, ma perché se io lo so prima mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito? Senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe? Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai? Ah, 13. Vabbè. Ci sentiamo allora. Ciao, ciao. 800240024, quanti sono quelli tra voi che stanno cominciando a fare la conta degli amici? È semplice, basta scriverli, per qualcuno è un copia e incolla. Copiatevi le denominazioni dell'elenco delle persone che avete in Facebook, selezionate quelle considerate veramente amici. Io non faccio molta distinzione come fa Sigmund Bauman tra relazione e connessione. Le mie connessioni sono le mie relazioni, non trovo differenza sostanziale tra le persone con cui ho una relazione e le persone con cui ho una connessione. Qual è il punto di discrimine? Il contatto fisico, la conoscenza carnale, l'essersi stretti la mano, aver condiviso qualche serata con una bottiglia insieme o semplicemente aver avuto dei momenti di profonda comunione, di fibrillazione, di attesa, di desiderio o di condivisione di pensieri o di attimi di solitudine. Vedete, anche Verdone, che doveva compiere questo mitologico viaggio in Polonia verso anche lì luoghi paradisiaci di facilità di relazione, non aveva a disposizione gli strumenti telematici che oggi abbiamo per allacciare relazioni, quindi per fare amicizia. E anche lui comincia a chiamare al telefono le persone del suo taccuino, della sua piccola agendina, in cui non ha immediatamente una classificazione a seconda della fascia d'età, a seconda del genere, a seconda delle inclinazioni, delle latitudini e della piacevolezza del profilo. No, deve semplicemente andare a tentoni. Enrico, buongiorno. Sì, buongiorno. Ha fatto il conto degli amici? Ho fatto il conto degli amici, ma... l'ho fatto quando ho scoperto di avere un bimbo autistico, che all'improvviso quelli che non erano amici sono scomparsi all'improvviso e sono rimasti solo i veri amici. Ed è, io ritengo che sia... Guardi, posso dire una cosa? Io ho pudore della mia biografia, anch'io un bimbo autistico, ma mi ha permesso di selezionare gli amici, molto bello. Gli stronzi galleggiano e se ne vanno altrove e gli altri rimangono. Esatto, anzi, io lo ritengo uno dei più grandi regali che l'avventura con mio figlio, che ritengo una cosa stupenda, mi ha fatto. Guardi, le dico, mio figlio, siamo nelle condizioni, tutte le persone che hanno un ragazzo con dei problemi, è il mio cane da tartufi, è quello che mi aiuta a selezionare con la sua istintiva capacità di determinare le personalità e la profondità delle persone, le persone che vale la pena di frequentare o no. Ma comunque, al di là della maniera di selezionarli, quanti ne sono rimasti? Ne sono rimasti 10 amici veramente. Tutti maschi? No. 10 io intendo quasi sempre in coppia, quindi moglie e marito. Ah beh, lei diciamo va per coppia. Io normalmente, difficilmente, cerco sempre le persone singolari, nel senso, non mi piace avere come amici dei microcosmi. I microcosmi hanno già un loro equilibrio tra di loro e bisogna poi, come sempre, compensare. Preferisco avere amica una persona per volta, staccato ed isolato dal suo contesto di amici, dai suoi sottoinsiemi relazionali. Ma questo è il mio punto di vista. Elena, buongiorno. Elena, sì, eccomi. Hai fatto l'elenco degli amici? Sì, diciamo che io sono abbastanza fortunata perché non ho mai contato molto sugli amici, nel senso che comunque, come dire, in qualche modo per me l'umanità è tutta positiva e tutta negativa, e quindi chiedere, diciamo, sul chiedere sono abbastanza restia sempre. Perché... Beh, se non chiedi è anche difficile che ottieni, Sì, però siccome spesso ho avuto dei rifiuti in momenti di difficoltà, diciamo che visto che amo molto l'umanità, preferisco a questo punto della mia età... Direi che ami più non essere delusa. Sì, preferisco, diciamo, avere, intrattenere dei rapporti così molto carini. Anche carino importanti. È una parola che per me equivale a una bestemmia. Vabbè. Dei rapporti importanti che però, diciamo, non mettano troppo poi in gioco degli equilibri, nel senso che comunque le persone, anche quando magari non possono aiutarti, hanno delle reazioni magari... Diciamo, tu sei per lo status baggiano dell'amicizia, che è qualcosa a metà, che non ti impegna troppo e non ti impensierisce. Però diciamo che fra questi mettiamo, adesso stavo guardando su Facebook, di persone anche nuove, persone comunque con le quali ho avuto dei momenti importanti anche di comunione, di così ne ho parecchi, nel senso che sono almeno 40, 50 le persone. Ecco, definiamo dei numeri, il primo ascoltatore ha detto 10, tu ti avvii verso la quarantina, 40 persone che comunque con il tuo metro di giudizio, con il tuo senso estetico, con la tua percezione, con il tuo desiderio di moderare il trasporto nell'amicizia, una quarantina, questo è importante. Sì, 40, da cui ognuno, so che ognuno mi può eventualmente forse dare qualcosa, ma così. Poi però, insomma, diciamo, se vogliamo parlare di persone sulle quali io posso contare, non sono poche, comunque saranno 40, 40 è un ottimo numero, direi. Pronto, Amedeo? Ciao, sono Enzo. No, Renzo, Enzo. Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo. Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione. No, io ti avevo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto, perché c'era un progetto abbastanza... Ah, o passi con tua moglie? Vabbè. E sarà per un'altra volta. D'accordo. Buon Ferragosto, allora. Ciao, grazie. Sono l'amico di Martucci. Vabbè, scegliamo subito da tu, va bene? Ciao. Senti, allora, mi rendo conto quanto fosse difficile, ce lo siamo dimenticato, trovare degli amici in momenti di solitudine, in momenti di bisogno. Devi fare un viaggio per Ferragosto, ti serve un compagno di viaggio con cui dividere le spese. Oggi è semplicissimo, uno mette il messaggio su Facebook, comunque qualcuno risponde. Ho provato, perché mi piace molto sperimentare la possibilità di connessione e quindi di relazione che danno i social network, che è interessante andare ad esempio in una città che non si conosce e mettere nella propria riga di status il fatto che si chiedono informazioni su quella città, c'è sempre qualcuno che ti risponde, che si fa in quattro per aiutarti. Non so se questa poi generosità è indotta dal tipo di mezzo che si usa, se poi in realtà all'atto pratico queste persone sarebbero veramente disposte ad aiutarti. Io stesso rappresento un esempio lievemente atipico, parlando alla radio naturalmente, uno ha anche un po' l'effetto mago di Oz, l'essere un omino banalissimo viene amplificato dal fatto che hai una macchina che amplifica la tua voce, amplifica la tua presenza. Mi piacerebbe sapere, e se chiamate all'800 24 0024, sarò lieto, contento, anzi pretendo di ascoltare il vostro parere, quanto in realtà sia reale la percezione di questa catena di solidarietà che si è intorno, vedendo tante faccettine accese su Facebook. Roberto da Milano. Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno a te, ciao. Guarda, devo quanti sono? Questo. Io... Un numero. Pochissimi, per fortuna. Quanti? Sono sempre meno. Quanti? Quattro. Negli anni si sono diradati e devo dire che amando le minoranze, amando le individualità e odiando la collettività, tutti quei meccanismi di aggregazione fasulli, beceri, io li rifiuto categoricamente. Quindi certo? Voi cinque siete, diciamo, una sorta di squadra che fate gruppo assieme, uscite sempre assieme? Ma no, come te, amando l'individualità, preferisco interagire con le singole persone, dove i rapporti sono più veri, dove le emozioni escono. Sono stato un frequentatore di chat, ma sempre nel rapporto individuale, nel tête-à-tête, nell'approfondimento, per poi uscire. Sogno e vivere in un faro, staccato da tutto e da tutti, per essere libero da mezzo agli altri e quindi di vedere quei pochi amici, quattro amici quando lo decido io. Oggi vorrei mettere dei numeri in fila. Vito da Milano. Sì, buongiorno. Quanti amici? 8, 82, 147. Cosa sei, un terno all'otto? No, 8 sono quelli che inviterei a cena, 82 sono quelli che sto invitando al mio matrimonio, mm-hmm. Che quindi ho dovuto fare una lista. Beh, un numero 147. Modesto. Sì, secondo gli usi sono amici che ho dovuto invitare diciamo quasi per forza. 147. Sì, però quelli sono amici dello sposo e amici della sposa. 82 no, solo miei. E in tutto quanti siete invitati? 160 qualcosa. Ah, 80 e 80 avete fatto, 80 teste. Sì, qualcosa del genere. In realtà sarebbero stati 147 quelli che io avrei voluto, ma che per questioni economiche ho dovuto lasciare a casa, quindi ho dovuto fare una selezione. Cioè lei ne ha ceduti 60 dei suoi, ne ha presi 80 di sua moglie. Eh sì, ho dovuto. Eh beh, questo è importante. Comunque, è importante avere i numeri. È Anna Maria da Biella. Anna Maria. Sì, buongiorno. Quanti amici? Ma ho ancora diverse amiche. Ancora io... perché sono morte? Sono morte, ci siamo disperse. Noi avevamo un gruppo. Io ho abitato in due paesi, perché papà mio per lavoro è andato in giro. Stavo nel gruppo di Novara, dove ho fatto l'elementare e il primo magistrale. Poi sono venuto nel gruppo di Vercelli, di Biella, mm-hmm. E ho fatto le magistrali. Ho ancora le amiche che ho fatto la quinta e la prima media vicino a Novara, che ha 86 anni, siamo ancora in contatto. Vado a trovarla, lei viene a trovare me e abito sul Lago Maggiore. Poi qui dove abito io, ho 5-6 amiche, proprio le mie compagne che hanno fatto le magistrali. Una sono 86, io ne vado per gli 85, ci troviamo ancora a fare i pranzi. Quindi alla bella età di oltre 80 anni si possono comunque felicemente mantenere 5-6 amicizie sin dai tempi delle scuole elementari. Grazie. 800 24 0024. Buongiorno Giampiero Lotito. Buongiorno Giampiero Lotito. È l'autore di Migranti Digitali, Origine e Futuro della Società delle Informazioni, edizioni Bruno Mondadori, è stato insegnante di editoria multimediale all'Università degli Studi di Milano, è un esperto di relazioni in rete, perlomeno lui crea le macchine attraverso cui poi noi ci relazioniamo in rete. Cosa ne dici di questo conteggio che stiamo facendo prettamente analogico rispetto alle possibilità che in realtà danno i social network e le macchine di relazione? Beh, è divertente il confronto, perché diventa alla fine il confronto tra due tipi di memoria: la memoria personale, la memoria fisica di cui noi siamo dotati, che in genere è selettiva, ci porta a selezionare le cose più importanti della nostra vita, gli amici più importanti, le persone più importanti, e la memoria invece dei social network, che è una memoria di accumulo, una memoria in cui noi tendiamo ad allargare il più possibile la rosa delle persone con cui ci mettiamo in contatto, facendo l'esatto contrario di quello che è la norma della memoria. Però scusami Giampiero, è un principio fondamentale che regola anche le leggi dell'evoluzione. Noi allarghiamo la rosa per selezionare meglio. Su 20.000 noi siamo più convinti di trovare la persona con cui possiamo passare momenti di maggior piacevolezza, di maggior confidenza, di maggior solidarietà rispetto alle 5 compagne di scuola. Hai sentito l'ascoltatrice di 85 anni, conserva 85 anni le 4 compagne di scuola elementare. Tu pensa, noi che sovrascriviamo ogni giorno centinaia di amici, io ne seguo 100, ne metto altri 100 dentro, perché mi diverte galleggiare nel caos. Ma questo è proprio uno dei temi che affascinano chi si affaccia per la prima volta nel mondo delle chat e dei social network, cioè la facilità con cui si riescono a conoscere, a entrare in contatto e molto spesso in confidenza persone che addirittura nel caso delle chat non sai chi sono, non sai bene cosa fanno, e questo ci dà un senso di onnipotenza relazionale che ci fa pensare di essere capaci poi di avere rapporti teoricamente infiniti. In realtà poi piano piano si riproducono anche nel mondo digitale gli stessi meccanismi del mondo analogico. Dopo una prima fase di allargamento a dismisura, io anche per la mia esperienza personale ho visto che si tende a creare selezione, perché poi fisicamente questo diventa un fatto naturale. Quando si passa dall'oggetto che abbiamo davanti, si passa al telefono, alla conoscenza personale, non si possono certo tenere rapporti con 150, 500 o 1000 amici. Il tema mi sembra ben definito, ci sentiremo con Giampiero Lotito fra un istante dopo le informazioni della borsa. 800 24 00 24, le modalità per fare la conta dei propri amici. Siano essi amici conosciuti attraverso macchine di relazione, quindi dei computer, quindi dei telefoni cellulari, quindi qualsiasi marchingegno che prolunga le nostre emozioni, sia quelli mantenuti faticosamente attraverso le fasi necessarie della nostra vita. Sto qui stracciando e scrivendo, ristracciando e riscrivendo foglietti del mio block notes, cercando di annotare quelli che sono i miei amici. Vedo fluttuare il numero degli amici online, adesso sono 255, potrei elencarveli in ordine alfabetico. Vedo le loro foto, so quello che pensano in questo momento. Equivale questa contemporanea maniera di classificare nel proprio database neuronale i propri amici a seconda delle informazioni che loro ci danno, degli input che ci permettono di assorbire, oppure è da considerare come superiore la maniera arcaica, semplicemente biologica, di considerare i propri amici come dei supporti emotivi che si mantengono e galleggiano nella nostra memoria, come la signora di 80 anni che ricordava ancora tutti gli amici della propria classe di scuola elementare. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei Gianluca. Allora, voglio dire, io penso anche che l'amicizia molte volte va a step, nel senso che li conosci, i primi amici ce li hai a 5 anni, poi a 10, a 20, 30. E prima, proprio durante la trasmissione, pensavo effettivamente, ma chi mi è rimasto come amico? Allora dico, fondamentalmente me ne sono rimasti una decina, chi mi sono trascinato dai 10 anni ad adesso. Ho cambiato città un paio di volte, ho cambiato tutto quanto, e qui i legami là sono rimasti ancora però forti. Però Marco, scusi, oggi. Lei la qualità o lo spessore dell'amicizia? Lo considera nei tempi di frequentazione? Io mi sono sentito molto più amico in persone che ho conosciuto magari una settimana fa, e ho amici delle scuole elementari medie che quando vado nella mia città natale cammino strisciando lungo i muri per non incontrarli. Ecco, no, non proprio così. Vengono anche divisi molte volte gli amici, quelli là che reputo così o presunti tali molte volte. Ho l'amico per confidarmi sul lavoro, alla quale so che con lui mi posso confidare, mi può dare il giusto consiglio. Ho l'amico che alle 3 del mattino una volta sono rimasto a piedi ad Aulla, a 300 km da casa mia, l'ho chiamato e ho detto, Angelo, ho bisogno, tac, è venuto. Amiche ne ha? Amiche sì ne ho, sto molto attento dalle amiche, sono sposato, un bambino, un altro mi arriva a maggio. Vabbè, mica se le deve per forza spupazzare intimamente, un'amica è anche bella per starci assieme, uscirci, chiacchierarci, no? Indubbiamente. Lo sa perché dico questo? Perché in realtà coloro che si appoggiano ai social network, è inutile che ci prendiamo in giro, difficilmente si cercano persone del proprio genere. Sotto la parola amicizia, che è una parola che vuol dire tutto, il contrario di tutto, in realtà si va a razzolare nel recinto delle persone che non proprio ci assomigliano. Quindi virato notevolmente il concetto di amicizia. Nelle amicizie che si coltivano nel social network, in realtà sì, siamo tutti amici, ma sono più amici quelli che magari ci accendono la fantasia. Non è detto che questa fantasia poi vada a spalmarsi in comportamenti reali e concreti, però quelli sono gli amici. Io sfido qualunque ascoltatrice, e pregherei di intervenire perché vedo un'assenza di pubblico femminile, se in realtà gli amici che ha sul social network non sono poi le persone da cui amano essere sottilmente, velatamente, delicatamente corteggiate o vezzeggiate o sostenute, perché per noi uomini è esattamente così. Non è d'accordo, Marco? Io sono totalmente d'accordo su questo, tant'è che social network mettiamo sempre in casa Facebook, che oramai è quello che comunque è più... In questo momento sì, è il più completo nella struttura tecnica. Ed è anche quello che oggi come oggi crea più problemi tra, io vedo tra me e mia moglie, per esempio. Mi hanno ricercato anche delle mie vecchie fidanzate. Io quando dico, oh mamma mia, dico a mia moglie, ascolta, guarda, questa qua era la mia ex fidanzata, mi cerca l'amicizia. No, non ho problemi. Diciamo che nelle regole della tenuta di coppia bisogna cominciare a considerare come un elemento che deve avere sempre un maggior margine di tolleranza anche la possibilità di dividersi attraverso relazioni, chiamiamole virtuali, chiamiamole attraverso strumenti di socializzazione telematica, che in realtà non dovrebbero intaccare fortemente quello che sono i rapporti di coppia, ma rimangono virtuali, sì, perché c'è poi questo distinguo molto labile, nel senso si cerca di farlo rimanere virtuale. Che una profonda attesa di un rapporto che è semplicemente telematico scava delle trincee molto più invalicabili in un rapporto di coppia, piuttosto che le persone poi si vedono, si conoscono, entrano nella frequentazione quotidiana. Ah beh sì, no, perché insomma, io tanti anni fa ho avuto una situazione del genere tramite una delle compagnie telefoniche che mi chiamò per un'intervista. Vuoi una cosa, vuoi un'altra, siamo riusciti a conoscerci. E comunque sì, devo dire che comunque all'epoca ho avuto una relazione con questa. Sì, ma lì andiamo oltre l'amicizia, un'amicizia che poi affonda concretamente le sue radici in qualcosa che è ben più profondo. Sentiamo adesso, perché mi interessava avere qualche elemento in più rispetto alla notizia che abbiamo dato in maniera fuggevole dei 150 amici tollerabili dal nostro apparato fisiologico, e il professor Giovanni Boccia Artieri. Buongiorno. Buongiorno a voi. Docente di sociologia e New Media all'Università degli Studi di Urbino, Carlo Bo. Lei ha avuto modo di vedere in maniera più approfondita questo studio americano sui 150 amici? Ma sì, ho letto alcune cose abbastanza diffuse ed è un tipo di teoria che nei media sociali circolava già da un po' di tempo e poi è stata ripresa dai giornali. E non fa altro che ribadire un concetto che è quello che fondamentalmente abbiamo dei vincoli che sono neurocognitivi rispetto al concetto di amicizia. Quello che i giornali hanno trattato, che l'informazione ha trattato, di fatto però è essenzialmente che esiste questa costante dei 150 amici nella storia dell'umanità, non ha detto nulla rispetto a come si sono modificati i modi di stare in connessione e di rapportarsi con questi 150 amici. Beh, noi abbiamo fatto alcuni esempi tratti dalla commedia italiana negli ultimi decenni, i compagni di Bisboccia, di Fantozzi si mettono in una cabina e cominciano a chiamare al telefono, Verdone che chiama al telefono. Oggi c'è una velocizzazione di sistemi di raccolta, di chiamata degli amici, questo non ha amplificato la nostra possibilità di contenere nella nostra memoria, cioè la nostra capacità cognitiva non ha avuto un upgrade per poter contenere il maggior numero di amici? Purtroppo è caduta la linea. Quando riprenderemo il professor Bocciartieri avremo la risposta. Sentiamo se Giampiero Lotito, basandosi sulla conoscenza delle macchine, può in qualche maniera avvicinarci a dare una risposta a quello che ho domandato. Giampiero Lotito, ricordo, è un esperto di media sociali. Lui costruisce, immagina le strutture attraverso cui poi noi espandiamo la nostra volontà, il nostro desiderio di conoscenza. Scusa Gianluca, ma dato che stavo ascoltando quello che diceva il professore, se puoi ripetermi la domanda. No, volevo capire, il professore dice che in realtà, mi sembra di aver capito, che noi abbiamo un limite fisiologico nel mantenere vivaci, vive o perlomeno presenti o perlomeno nella nostra memoria di superficie il numero di amicizie che non va oltre le 150, antropologicamente così. Io invece penso, ritengo, ma questo è soltanto un mio dato empirico, che l'uso intenso delle macchine sociali, delle macchine relazionali, delle protesi emozionali, aumenti e specifici anche renda specifica la nostra capacità di tenere in memoria e di richiamare velocemente alla nostra emotività un numero maggiore di persone. Beh, sicuramente c'è stato un momento in cui questo passaggio è stato molto violento, è stato quando abbiamo cominciato ad avere un cellulare in tasca, ancora prima dei social network, perché il cellulare ha cominciato a darci la possibilità in ogni momento di essere rintracciati e di rintracciare degli amici, anche durante momenti della giornata in cui normalmente non lo potevamo fare. E diventa anche, Giampiero, un certificatore di intensità del rapporto. Se una persona non ci manda più messaggi, siamo abituati a avere messaggi, sì, sia esso il marito, la moglie, l'amico, il collega, nella nostra mente scatena un meccanismo per cui pensiamo che questa persona stia allentando il rapporto di frequentazione emotiva con noi. Esatto, poi i social network, in particolare le chat, che hanno costituito il primo momento di passaggio dalla comunicazione, che sono un po' superate, diciamo. Sì, però è stato il momento in cui siamo passati da una comunicazione con persone che conoscevamo a una comunicazione anonima, che poi diventava a volte amicizia o addirittura amore. E questa cosa è stata quella che ha fatto sì che tantissima gente spostasse il proprio mondo relazionale dalla realtà all'interno dei computer. In quel momento è anche successo un fenomeno diverso, particolare, che una citazione di Oscar Wilde esprime molto bene: datemi una maschera e vi dirò la verità. Cioè, la capacità di entrare in una relazione di amicizia o comunque di confidenza fortissima che un social network, una chat, uno strumento di questo tipo stranamente ti dà. E questo permette, mentre nella realtà per coltivare un'amicizia molto spesso ci volevano i mesi o addirittura gli anni, qui si passa ai giorni, alle settimane, o magari capita di stare 3-4 ore di seguito di notte a parlare con una persona e scoprire che quella persona è una persona con cui condividi. Ecco, fermiamoci un attimo, Giampiero, vorrei sentire Emily dalla provincia di Milano. Allora, quello che dice Lotito è quello che tutti conoscono, chi frequenta macchine relazionali, che il coefficiente di intimità in tutte le accezioni possibili e immaginabili, viene notevolmente accelerato in un rapporto telematico, quando c'è una macchina a far da filtro, da interfaccia fra esseri umani. Emily è d'accordo? Guardi, io non lo so, buongiorno a tutti. Io ho 52 anni e trovare un'amicizia è come trovare l'ago veramente nel pagliaio. Io ho avuto soltanto una volta un'amicizia, perché per me l'amicizia è una cosa molto importante. Significa essere vicino a una persona quando ha bisogno, significa essere sempre presenti. E purtroppo io nel mio percorso... Vabbè, qua diventa un badante, non è più un amico però. Ma no, non un badante, sapere che c'è una persona e non dico essere disponibile, per l'amor del cielo, però l'importante è esserci. Io trovo che il più bel regalo che si faccia un amico è fargli sentire che non si ha bisogno di lui. Sì, questo senz'altro, però non so, una volta alla settimana o anche due volte alla settimana è piacevole anche sentire. Però vede, già lei dà una regola: se una settimana l'amico non gli va di farsi vivo, già è meno amico. L'amicizia dovrebbe essere sregolata, secondo me sarebbe l'ideale, è chiaro. Poi anch'io soffro se persone che vorrei sentire non sento, se sbatto contro l'indifferenza di amici, se nel momento del bisogno me li vedo squagliare attorno, anche se più uno diventa anziano si rende conto che fa parte delle necessità della vita. È quello che è successo a me ultimamente. Elena, uno solo ha detto... Sono rimasta vedova e io gli amici non li ho più visti, gli amici di mio marito. E il che ti fa pensare, e in effetti in questi giorni pensavo proprio all'amicizia. Beh, avranno un po' di reticenza, gli amici del marito, se si accostano alla vedova temono di essere fraintesi, forse, non lo so, qualcosa del genere. Io avrei un pochino di timore a accostare la vedova di un mio amico, certo. Sinceramente. No, no, quello perfetto, io non parlo dell'uomo, io parlo della moglie. Perché lei ormai è scoppiata, la moglie, se eravate abituati a uscire in coppia, manca qualcosa, dovrebbe trovarsi un altro uomo e poi forse ritroverebbe coppie. No, non eravamo abituati a uscire in coppia, assolutamente no, però io voglio dire, una telefonata, una volta, facciamo così, una volta al mese, penso che ci stia bene. Guardi, questa sarebbe la nostra aspirazione, però se noi veramente vogliamo totalmente avere un rapporto di amicizia, non dovremmo mai dirlo né pensarlo. L'amico vero è quello che non si sente mai in obbligo di dover fare qualcosa per noi. Allora è vero amico. Se noi riusciamo a avere questo atteggiamento nei confronti di un'altra persona, saremo veramente amici per quell'altra persona. Mi diverte vedere che molte volte quelli che sembrano dei media che fra di loro hanno rapporti sinuosi e di interscambio, sono impermeabili quando uno chiama in causa l'estensione della personalità attraverso modalità diverse rispetto a quello in cui uno è abituato ad essere aperto. Tutte le persone con cui normalmente ho rapporti epistolari intensi, a cui pongo domande o risposte o sollecitazioni, provocazioni su Facebook, e sono veramente tanti, chiamati a parlare al telefono hanno come un senso di ritegno, un senso di pudore. Degli oltre 300 in questo momento presenti sul mio profilo, li vedo tutti online, che si scambiano messaggi, elencano il numero dei loro amici, sono attivissimi nello scrivere, nessuno poi invece ha il coraggio di fare il numero e di partecipare alla radio. Invece un pubblico tradizionalmente abituato a mettersi in gioco alla radio, che sono queste signore, le vedove, le ottantenni, le signore che sentono la radio e non hanno pudore di esporre il proprio privato alla radio, in realtà non hanno probabilmente nemmeno idea di cosa significhi mettersi in gioco con migliaia di persone su un social network. Gianpiero Lotito, costruttore di macchine relazionali. Facciamo un rapidissimo escursus. Tu hai citato le chat, hai citato il telefono cellulare, hai citato i primi strumenti di sorpresa telematica. Ma oggi come sta organizzandosi il social network? In realtà è uno strumento che abbassa fortemente il livello di inconsapevolezza e di mascheramento, che sembrava il più grande limite e la più grande suggestione degli incontri telematici. Oggi non ci si nasconde più. La maggior parte delle persone mette il proprio telefono, il proprio indirizzo. È come se fosse un grande elenco delle potenzialità relazionali. Sì, questo è dovuto anche al fatto che è passato il tempo della sorpresa, è passato il tempo della novità. Le chat sono diventate un meccanismo di attivazione di rapporti più parossistico, perché essendo anonime, tu se vuoi avere contatti con una persona devi arrivare a conoscerla nella realtà, oppure devi incontrarla nuovamente nella chat, e questo vuol dire magari star lì, passare, ripassare, aspettare. Cioè, ha perso quel fascino della novità che aveva. Diciamo che il lumacone su un social network prima o poi viene svelato per la sua striscia bavosa, è inutile che si nasconde. Mentre nella nuova generazione di social network, anche il concetto di anonimato, che era proprio della prima generazione, è andato un po' così, è diventato vecchio, per cui oggi si ha più voglia di avere relazioni con persone che hanno nome e cognome, magari andando a recuperare attraverso questi strumenti i vecchi amici o conoscendo nuove persone o aumentando la capacità di relazione con quelli che conosciamo magari per lavoro o altro. E la differenza importante tra questi due mondi, quello parossistico delle chat, che è un mondo che funziona sostanzialmente in tempo reale, e quello invece più rilassato, più calmo, più tranquillo di social network come Facebook, che avendo la possibilità di una comunicazione asincrona, quindi io lascio dei messaggi, scrivo, metto delle cose in bacheca, cioè faccio tutta una serie di azioni che mi permettono di mantenere tante relazioni e tante amicizie senza avere bisogno di essere sempre lì dentro. Questa è un'altra delle grandi novità. Diciamo che sono anche strumenti di lobbying emozionale molto forti. Non sempre è detto, anche se penso sia il motivo principale che uno si accosta a un social network, per la curiosità di fare conoscenze, di buttarsi in un mare di suggestioni e prendere qualche pesce all'amo, c'è anche possibilità di allacciare seri rapporti di solidarietà fra persone. Molte volte si vede che per aree professionali, per luoghi di frequentazione, per interessi, aggrega notevolmente questa maniera, quindi l'amicizia che si cementava nel luogo dello sport, nel luogo del lavoro, nel luogo dello studio, ha luoghi magari incorporei altrettanto potenti come luogo di aggregazione. Un altro elemento fortissimo di novità rispetto al precedente mondo delle chat: questi social network contribuiscono anche a arricchire o comunque a rendere più viva e più ricca rispetto al passato la nostra memoria personale. Sentiamo Paolo. Paolo da Torino. Ah, buongiorno, ciao. Ma condivido molto il discorso che hai fatto anche prima con la signora. Quanti amici hai? Io ho 32. Ah, quanti amici ho, scusa? Ma tra amici forse li divido più con quelli cari, una decina. Una decina, 10, avanti. Tra amici e amiche. Volevo fare una mia riflessione personale, nel senso, prima tu dicevi che condividi di più l'amicizia con una donna, anche se è un discorso di epidermide che l'ho avuto di meno, ed è vero. Però l'amicizia con la donna non può nascere, cioè tu pensi che io conosci una donna e puoi instaurare subito un rapporto di amicizia senza che ci sia quell'amicizia e quella malizia che c'è, sì, comunque tra l'uomo e la donna. Può essere un'amicizia maliziosa, certo, divertente, che può avere mille esiti. È molto divertente, però è amicizia vera o è prima o l'input che può avere un uomo e una donna come attrazione fisica? Vabbè, mica hai detto per forza di non andare a letto assieme o fare scambi carnali. Esiste quella sorta di elemento di solidarietà che è su una base anche di piccola seduzione che può mantenere vivo un rapporto piacevole. Poi ci puoi fare mille cose assieme, può essere la tua collega. È vero. Puoi anche farci l'innominabile atto e continuare a essere amico dopo. Cioè, esatto. Non dà un gran valore poi alla consumazione fisica come qualcosa di non ritorno. Poi, questi sono punti di vista. Elliot, da Monza. Eccomi qui. Ma io, la mia esperienza è del tutto opposta rispetto a quella dell'ascoltatore precedente. Io ho fatto il conto, 9 amici. Veri, quelli che considero amici, nonostante sia presente su dei social network più che altro professionali, io conto più di 500 contatti. Nessuno di questi 9 è nato all'interno dei social network, sono delle persone con cui ho ottenuto un rapporto di amicizia che secondo me è qualcosa di particolare. Guardi, lei dice una cosa senz'altro interessante. Io invece stavo facendo un conto adesso con i numeretti degli ascoltatori, che io comincio ad avere più amici e persone con cui lavoro, con cui mi vedo, con cui realizzo anche dei progetti, più conosciute attraverso sistemi telematici che attraverso la realtà. Lo Tito stesso mi sembra averlo conosciuto una volta in rete, ma un'infinità di ospiti che sentite in questa trasmissione sono persone che siamo conosciuti scambiandoci materiali in rete. Edda da Verona. Sì, pronto. Buongiorno, io sono una pensionata di 76 anni. Io non ho mai avuto amicizie attraverso i... Qual era il suo luogo di socializzazione? Qual era? Dunque, io mi ritrovo con amici di scuola, compagni di scuola. Però da quanti eravamo siamo rimasti metà. Poi? Poi con le amiche della parrocchia. Siamo partite in 30. Anche lì Ma che facevate nella parrocchia? Ah, facevamo... giocate a ping pong? Giovani? Quando, sì, non credo ci sia un'età nella parrocchia, un'età partendo, indefinita, partendo dai visto giochi, che i sensi devono essere soppressi, siete sempre in un'età indefinita, è amici, ci si vuole bene, si fanno iniziative insieme. Sì, molto, perché noi siamo partite da bambine, prima con i giochi, poi ci siamo aggregati con i ragazzi, facevamo delle feste, andavamo in gita... Ecco, ma eravate controllate in parrocchia? Vita, insomma, sì, ma non c'è una libera espressione, c'è sempre comunque un'etica da dover rispettare. Il bello del social network è che l'etica è determinata dalle persone che si incontrano, non hanno dei canali. Quindi... Beh, lei, di questo meraviglioso gruppo di parrocchia, quante siete rimaste? Numero? Guardi, siamo partite una trentina, siamo rimaste una metà. La metà, 15 sono perse per strada. Sì. Forse perdute, ma non per via di perdizione, ma per via delle anguste della vita, spero. Valentina da Milano, chiudiamo con lei, veloce. Sì, buongiorno, io porto la mia esperienza da donna 24enne. Con una grande amica. Fine, la sua... Da considerare una grande amica. E altri amici non ne ha? Gli altri, sì, grandi conoscenti, ma una grande amica. Una grande amica perché ho la possibilità di non sentirla magari per un mese, non vederla per due e sentirla accanto a me. E abbiamo la possibilità di comportarci... lasciandoci libera l'un l'altra. Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante. Secondo me è il principio che vale sia per le amicizie intese in senso tradizionalmente concreto, maturate nei luoghi di studio, nei luoghi di lavoro, sia per le amicizie di nuova generazione, che sono le connessioni attraverso la rete. L'amico vero, la percezione dell'amico è quello che c'è anche quando passa un lunghissimo tempo senza che noi abbiamo bisogno di lui, senza che lo cerchiamo. Io questa mattina, prima di iniziare la trasmissione, ho salutato un'amica che magari non vedrò da un anno, però mi ha fatto piacere sentire che era ancora lì, che non era cambiato nulla, che ci potevamo scambiare impressioni, saluti e amicizie. Come saluto con amicizia profonda Paolo Corleoni e con amicizia spero ancora più profonda Anita Panizza. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.